Hardcore. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Yeah. 28 gennaio 2013, redazione diretta d'azione del lunedì, e quindi come ogni lunedì oggi c'è la lettura anche del libro, oltre alla classica controinformazione. Oggi però ci sarà una cosa un pochino più diversa, visto che ci sono degli impegni, sappiamo mantenerli, quindi si farà tutta la lettura del libro, no tutta di un colpo, altrimenti vi suicidate. Però comunque la classica cosa, lettura del capitolo, la musica. E allora, invece di metterci la controinformazione tra un capitolo e l'altro, manderemo per il capitolo almeno fino alle 5:15, 5:20. Poi dopodiché Marcello si saluta e dopo si parte con la controinformazione classica e la musica. Allora, ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Brainiac e il brano è Nothing Ever Change. Allora, 28 gennaio 2013, come dicevamo, riprendiamo Black Flag, giusto un passaggio di riepilogo del punto in cui eravamo arrivati. Ricordiamo la doppia struttura, cioè la storia di Paradise, questo mondo proiettato nel futuro in cui si prendono vita, insomma, queste nuove relazioni sociali basate sulle malattie mentali. Siamo arrivati al momento in cui un'astronave viene dalla Luna carica di medici che devono visitare il mondo al principio dell'anno 3000 e vengono accolti da una banda di persone con la giusta intenzione di dare loro un bel benvenuto. Paradise 7. In realtà la psicoanalisi è solo un punto di vista all'interno del campo generale della psichiatria. Nel resto del mondo essa occupa per lo più una posizione relativamente secondaria e viene usata primariamente per curare persone con infermità mentali lievi, specialmente dell'elite economica e sociale. In Europa e nelle nazioni in via di sviluppo la psichiatria è prevalentemente biologica e medica. Le origini della psichiatria, oltre che della disciplina affine della neurologia, sono chiaramente biologiche. Nancy Andreessen, The Broken Brain, 1984. E questo sarebbe un laboratorio? La voce rauca di Kurada vibrò d'indignazione. In effetti la saletta in cui avevamo messo piede tutto ricordava, salvo che un luogo riservato alla scienza. C'era sì un lungo banco carico di provette spezzate, ma per il resto non si vedevano che cumuli di rifiuti e pannelli elettrici squarciati e contorti, resi ancora più grotteschi dalla nebbiolina. Ci sono stati problemi di ordine pubblico, azzardò Norman, più che mai nella parte del sanitario contrito. Da parte degli psicologi, suppongo, brontolò Kurada, mentre passava in rassegna le apparecchiature distrutte. Psicologi, psicoterapeuti, psinacalisti, Dio sa i problemi che ci hanno dato nel corso del nostro esperimento. Sostenevano che le turbe psichiche non dipendono da fattori organici, ma da mancanza di affetto. Abbiamo faticato parecchio a liberarci di quegli ignoranti. Sì, sono stati loro, mentì entusiasta Norman. Quelli là della mancanza di affetto. Gentaglia, hanno rallentato il progresso scientifico per qualche secolo. Ma qui perdiamo tempo, dove sono le apparecchiature ancora operative? Norman indicò una seconda porta dal battente ammaccato retto solo da un cardine. In basso, là è tutto in ordine. Allora andiamo, ho già visto abbastanza, ruggine. Oltre la porta, una scala a chiocciola si immergeva nella nebbia. C'era luce, anzi, grazie a dei tubi fluorescenti alimentati da una centrale automatica, sepolta chissà dove. Lilith non era abituata a interrogarsi sulle sorgenti di energia di cui fruiva, assieme ai miliardi di abitanti di Paradise. Quelle visibili erano distrutte, quelle invisibili erano state dimenticate. Forse le seconde erano sepolte nella pozza melmosa e putrescente chiamata Oceano. Ma era difficile accostarsi alle sue rive. Erano perennemente assediate da centinaia e migliaia di fobici e depressi che cercavano un po' d'acqua per affogarsi e morire in maniera da loro creduta indolore, meno dolorosa comunque, delle torture degli schizzi. Lilith si trovò a scendere alle spalle del giovane timido con cui aveva già conversato. Ne approfittò per interrogarlo di nuovo. «E che cosa vi aspettavate di trovare qua?» La risposta fu un sussurro. «Tutto, ma non questo. Sulla Luna non ricevete informazioni. Poche saltuarie. Non sappiamo nemmeno chi ce le manda». La voce del giovane era roca. Sembrava terribilmente inquieto. Certo eravamo inconsapevoli che sulla Terra non c'è più traccia di scienza, genetica, informatica, fisica nucleare. Solo tre secoli fa si partoriva fuori dal corpo, si impiantavano computer sotto la pelle, si assemblavano pezzi di cadavere per farne soldati. Ma l'esplosione demografica ha annullato tutto. Lilith non aveva capito nulla. La pura curiosità la spinse a chiedere. «Vuoi dire che si stava meglio?» «No, non credo». Ma la pazzia era tenuta sotto controllo e una parte della popolazione era al riparo dalla violenza. Al riparo dalla violenza. Lilith si sentì fremere di indignazione. Senza violenza non c'era contatto umano. Che razza di società poteva mai essere quella che ignorava la comunicazione attraverso la morte e il dolore? Provò il bisogno irrefrenabile di spingere quel mollusco lungo la rampa di scale in modo che si spezzasse il cranio. Sperava solo che non morisse subito per poterlo torturare a lungo. Stava già per allungare le mani quando in basso si udì una cacofonia di voci. Avevano raggiunto l'uscita al piano terra che dava sulla piazza festante tra nubi violacei. Si ricompose, certa che di lì a poco avrebbe potuto attuare in altra forma il proprio progetto omicida. «Ehi, ma io non voglio avere nulla a che fare con quella gente!» esclamò Kurada allarmato. «Riportatemi di sopra!» Un largo sorriso illuminò il volto fine di Norman. «Troppo tardi, dottore. È tempo che lei incontri i suoi pazienti!» Lilith capì che era il momento di agire. Sollevò il camice sull'anca, cercò nella borsa un pugnale a tre lame e lo premette sulla gola del giovane medico. «Non ti innervosire!» gli sibilò all'orecchio. «La festa comincia. Se continuerai a essere così teso, avrai la carne dura. Quando è dura, a me non piace». La caligine era più fitta che mai e procurò a Lilith un immediato capogiro. Ma era un disturbo inebriante, simile a quello che davano gli psicofarmaci dei fobici quando venivano assunti da uno schizzo. Udì Kurada urlare qualcosa, in tono sempre più angosciato. Sentì il giovane prigioniero che cercava di sfuggirle. Gli sfregiò il viso dal labbro all'orecchio per costringerlo alla calma. Il sangue le colò sulle dita. Tuttavia capì che le proprie percezioni si stavano facendo confuse. Era il delirio, ne era consapevole, ma non poteva ribellarsi. scorse in una nube scarlatta la folla ghignante in attesa all'esterno. Molti, eccitati e impazienti, avevano già cominciato a divorarsi l'uno con l'altro. Li vedeva come in uno specchio distorcente, visi oblunghi, corpi troppo tozzi, membra dilatate. Una giovane donna scarmigliata aveva addentato alla gola un ometto qualsiasi e non si staccava dalla preda nonostante quello le avesse conficcato un coltello nel ventre. Un individuo panciuto stava fracassando a martellate il cranio di un bambino. Alcuni ragazzini avevano gettato a terra un adulto e lo stavano sventrando a unghiate. Urla disperate ed esclamazioni gioiose si fondivano in un barrito cupo ed ossessivo che pareva provenire dall'intera Paradise. Lilith non riusciva a cogliere che dettagli. Occhi iniettati, labbra coperte di sangue, dita protese come grinfie, movimenti frenetici. Fu invasa da un'allegria famelica, squassante quanto un orgasmo. Tutta Paradise stava vivendo l'unica forma di empatia tra uomini rimasta sulla Terra, l'antitesi al gelo che si viveva normalmente. Uccidere per uscire dal proprio isolamento ed entrare in rapporto col prossimo. La festa. Finì di sgozzare il giovane, inebriandosi nei suoi sussulti. Lo amò per un istante. Ma il delirio si faceva strada nel suo cervello, il rosso era ovunque, e i nidi tutto attorno spalancavano fauci sorridenti, agitandosi come una flora lussureggiante percossa dal vento. Poté scorgere una sorta di lama enorme, un'enorme caldaia che poggiava su una mira pencolante. Curade veniva trascinato in quella direzione. La folla attorno si passava torce accese, qualcuno ne approfittava per dare fuga agli abiti del vicino. Fu in quel momento che un comando secco rintonò nel suo cervello. «Infermiera, salvami!» Lilith ebbe un sussulto, ma non riuscì a districarsi nelle immagini pazzesche che vedeva in giro. Tutti urlavano e tutti si azzannavano. Il sangue scorreva a fiotti melmosi tra le gambe di vittime aguzzini. C'era odore di melassa arancida. «Infermiera, salvami!» Lilith guardò in direzione di Curada. Non c'era dubbio, la voce era la sua. In quel momento la turba festante cercava di starlo a spinte e pugni dentro la caldaia, mentre le fiamme sfrigolavano e cominciavano ad avvolgere le pareti del recipiente. Chini al suolo, alcuni bambini grufolanti si contendevano le spoglie dell'altro assistente che avevano ucciso e sezionato con un coltellaccio. «Infermiera, in fretta!» Senza capire bene ciò che stava facendo, Lilith gettò a terra il pugnale che aveva in mano, ne cercò uno più lungo e pesante, nascosto in una guaina cucita allo stivale. Un ragazzo tentava di afferrarla per le spalle e si preparava a morderla. Lilith si girò di scatto e con la daga gli mozzò la mano, poi si gettò verso la caldaia. Tutto ciò che aveva chiaro, tra tante percezioni confuse, era ciò che doveva fare. Norman si volse a guardarla e lei gli sfondò il cranio con la daga. Poi puntò decisa su Curada, percepì forme confuse e scalmananti protendere le mani e le armi verso di lei. Saltò, schivò, tagliò tutto ciò che era fatto di carne e che giungeva alla sua portata. Una picca le scalfì un gomito, ma non vi badò. Il delirio si fondeva a impulsi sconosciuti, trasformandolo in una macchina letale. Quando un randello elettrico le sfiorò il ventre provocando una violenta contrazione muscolare, non vi badò nemmeno, fendette la faccia dell'aggressore e passò oltre. Quando raggiunse Curada, Lilith era un bozzolo furente di vesti insanguinate. Il medico non sembrava minimamente spaventato. Lei lo strappò alla caldaia e parò i fendenti di una catena e di una sciabola. Fianco a fianco, Lilith e il medico presero a correre verso l'ospedale. Curada si arrestò un solo istante per raccogliere dal suolo una barra d'acciaio. Se ne servì con inattesa perizia sul cranio di un aggressore. Raggiunsero la porta dell'ospedale, ansanti, lasciandosi alle spalle una scia di feriti moribondi. Mentre spingeva dentro il medico, Lilith udì dei colpi di arma da fuoco. Si girò e vide Hurtado. Ma non sparava a loro. Con il revolver stretto a due mani tirava i pochi che li inseguivano, ancora. Nella piazza non se ne accorse nessuno. In mezzo a volute di fumo vermiglio, gli abitanti di Paradise continuavano ad aggredirsi e a dilaniarsi. Si vedevano da tutti i lati osceni banchetti spettrali, scene di mutilazione, lotte disperate combattute in una fanghia rossastra che si confondeva con la nebbia. Tutti, carnefici e prede, avevano una sorta di estasi dipinta sul volto. Il grande scambio empatico stava garantendo la riuscita della festa. Thank you. I'm gonna hate today, 'cause don't you love the way Altro breve riepilogo per quei compagni e quelle compagne che si fossero messi in ascolto del nostro racconto solo oggi. Stiamo leggendo Black Flag di Valerio Evangelisti e riprendiamo adesso quella parte del libro dedicata a Pantera, un uomo che un palero, un messicano dalla faccia nerastra, originario di Haiti, che si è unito suo malgrado a un gruppo di irregolari confederati alla fine della guerra di secessione americana, attraversando con loro tutta una parte degli Stati Uniti del Missouri, tra massacri, attacchi e vendette più o meno dichiarate. 7. Sprofondando. Più grande di Quantrill, non un uomo, un unto del Signore, un angelo di Dio. Faceva sera e incombeva la notte. Il reverendo Tom Todd, sovraeccitato, cantava le lodi di Bloody Bill davanti ai Bushwalkers allineati sui loro cavalli di fronte al cumulo di morti che erano stati tra le tre compagnie unioniste del maggiore Johnston. Calava ormai sera, gli uomini erano con punti ma eccitati, solo pochi mostravano sonnolenza, residuo tardivo della grande sbronza di Centralia. Quasi tutti esibivano sul berretto alla cintura lembi di cuoio capelluto ancora imbrattati di sangue. Ciò spiegava i crani incisi e scorticati dei 118 cadaveri in giacca blu. George Todd interpretò il pensiero generale quando disse a Bill Anderson: «Mio colonnello, ciò che hai fatto resterà nella storia di questo paese. La vittoria di Lawrence è nulla in confronto. Quando il generale Sterling Price sarà qui, come minimo ti verrà nel suo stato maggiore». Fece per togliersi il cappello in segno di rispetto e di sottomissione, poi si ricordò del pene e dello scroto del soldato federale che aveva castrato, posati sulla testa, e si limitò ad un saluto molto militaresco. Bloody Bill sorrise. «D'accordo, ma dobbiamo spostarci in fretta. Quel che importa è che la data del 27 settembre 1864 rimanga incisa, più che nella storia, nella mente dei dannati Yankees. D'ora in poi sapranno che il Missouri, per loro, equivale ad una tomba». Pantera, che ascoltava un po' discosto tra i fusti dei Hitchcorees che crescevano sulla collina, fu sorpreso di apprendere che si era a fine settembre. Da quando aveva iniziato quella cavalcata, aveva gradualmente perso la nozione del tempo. Stragi, incendi, saccheggi, gli eventi si ripetevano ogni giorno uguale. Certo però che Centralia rimaneva un punto fermo quanto a carico d'orrore. Centralia è ciò che ne era seguito. Lui aveva partecipato poco, ma aveva visto tutto. Johnston apparteneva alla categoria degli ufficiali idioti, convinti che una guerriglia potesse essere piegata da un esercito regolare. Quando alle 3 del pomeriggio il maggiore unionista aveva avvistato un drappello di Bushwalkers con tanto di bandiera nera in testa, si era convinto di avere in pugno i massacratori di Centralia. Aveva spinto all'attacco il suo distaccamento, il 39esimo Fanteria Volontaria del Missouri, un corpo formato appena 2 settimane prima. Non aveva tenuto conto di molte cose. Che gli assalti alla baionetta erano coreografia pittoresca ma inutile, che i suoi giovani soldati vomitavano ancora, dopo ciò che avevano visto 2 ore prima a Centralia, che un Enfield richiede molti minuti per sparare un secondo colpo, mentre una Colt Army o Navy ne esplode 6 in successione, che mentre si inoltrava in un tratto pianeggiante tra colline boscose, aveva le bande di Tacrill, di Tom Todd a nord, quelle di George Todd e di Silas Gordon a sud, quella di Bill Anderson di fronte, allineata lungo le sponde dello Young's Creek. Johnson era vissuto da cretino ed era morto da cretino. Con lui 118 soldati. Così almeno la vedeva Pantera. Il messicano montò a cavallo. Accanto c'erano Molly e il lupo bianco, ormai ribattezzato Vecchia Pipa. Dal carro di Bella Garrigue, poco distante, giungevano i lamenti e i grugniti di John Coger. Il medico francese, ai piedi del suo veicolo, era però troppo impegnato per badarvi. Stava sostenendo una conversazione a muso duro con Hamp Watts. «Non puoi andartene proprio ora!» gridava Bella Garrigue. «Adesso che stiamo vincendo!» Il gentiluomo sudista alzò le spalle. «Così nessuno sospetterà che io sia un vigliacco!» montò in sella. «No, Anselm, Centrale è stato troppo, troppa violenza inutile, troppo tanfo di alcol, non è così che si combatte. Ma è questa la guerra moderna, guerra di popolo, non di eserciti, con individui capaci di tutto pur di difendere il proprio spazio. Anche la rivoluzione americana era così». «Lo so, Anselm, però ne ho abbastanza di sangue, di cervelli e di castrazione di soldati feriti». Hemp Yacht si aggiustò sulla sella, strappando al cavallo un leggero nitrito. «Per non dire delle teste tagliate dal tuo amico Coger, è la prima volta che vedo decapitare un uomo a morsi. ma forse non sarà l'ultima. Dove conti di andare? La tua fattoria è un mucchio di cenere. Provo a raggiungere il re Massimiliano in Messico. So che il generale Shelby ha previsto, in caso di sconfitta della Confederazione, di andare a combattere contro Benito Juarez. Vi precedo e vi aspetto. La disfatta è certa. Bella Garriga alzò la lampada a petrolio che reggeva in mano. Guarda che abbiamo già vinto. Io e te abbiamo in mente un tipo d'uomo libero e spietato, senza remore morali per la soddisfazione dei suoi bisogni. Comunque vadano le cose, abbiamo già forgiato il mondo del futuro. Ma resto convinto che il destino dell'uomo americano sia a sud del Texas. La frontiera di questo paese è sempre mobile e indica quella direzione. Buona fortuna, Anselma. Hump Viat girò il cavallo e sparì nella notte. Pantera stava per mettersi in movimento quando Bella Garrigue, rimasto con il lume alzato, lo chiamò. Messicano, bisogna che ti insegni a giocare a piquet. Partito Hemp, non mi resti che tu. E perché io? Sei l'unico qui che al disprezzo della morale borghese unisce l'intelligenza. Inoltre non dimenticare che abbiamo un paziente in comune, indicò il carro su cui l'uomo lupo seguitava a mugolare. Pantera alzò le spalle e diede di sprone. Molly e vecchia Pipa, non richiesti, gli andarono dietro. Per tutta la notte cavalcarono in silenzio mentre la luna spariva coperta da nubi. Verso l'alba si scatenò un temporale terrificante con tuoni che sembravano esplosioni di dinamite e raffiche di fulmini zigzaganti. I bushwalkers erano però del tutto indifferenti alle intemperie. Quando i tuoni impedivano loro di sentirsi, comunicavano a gesti o si lanciavano strida acute di animali. Pantera aveva già notato quel loro linguaggio segreto che denotava una grande dimestichezza con la fauna dei boschi. I giorni successivi piovve di rado, ma le nubi continuarono a coprire il cielo. Del resto, quest'ultimo si scorgeva a malapena dal fondo delle foreste fittissime in cui sostarono. La padronanza dei boschi e dei luoghi permise ai ribelli anche di sfuggire ad un agguato teso loro da un reparto di cavalleria federale, dotato persino di cannoni. Bastò correre al galoppo tra le querce di lupi e le pale da selibe si persero nel nulla. Dopo lunghi vagabondaggi da una selva all'altra, la piccola armata finì per piantare bandiera nera vicino Rocheport, Bone County, la cittadina che era stata rasa al suolo da una rappresaglia unionista, tanto che le sue rovine fumavano ancora, ma le colline attorno erano fiorite e accoglienti. Per di più, la popolazione del luogo sembrava considerare Bloody Bill un eroe già mitico. Graziose ragazze bionde, tutte trini e sorrisi timidi, venivano al campo a portare ceste di alimenti e ghirlande di fiori. Agricoltori burberi donavano spontaneamente muli e cavalli o si offrivano per lavoretti. Un vero paradiso, o paradise, come diceva Bella Garrigue col suo buffo accento. Il tempo rimaneva incerto, ma quantomeno non faceva freddo. La sosta, prolungata dal fatto che Bloody Bill era partito con pochi uomini per Bonneville, dove doveva incontrare il generale Price, permise a Pantera di riposare e di raccogliere le idee. Lo avevano arruolato di fatto come stregone, ma fino a quel momento nessuno, a parte Cogger di tanto in tanto, gli aveva chiesto di manifestare i suoi poteri di palero. Quegli uomini erano tanto estranei l'uno all'altro da essere indifferenti e dall'accettare senza discutere chiunque sembrasse conformarsi alle loro sanguinose regole di esistenza. D'altro canto, Pantera non aveva motivo di esercitare la propria magia. Inutile evocare gli inchisi quando la presenza degli spiriti del male era tanto palese. Inutile anche forzarli ad agire in assenza di uno scopo preciso. Attendeva solo che si presentasse l'occasione per individuarlo, per lacerare il velo che nascondeva la verità appena intuibile. Il momento venne in un pomeriggio noioso mentre osservava le foglie rossicce e già secche nei lembi che un vento sostenuto staccava dalle querci e depositava al suolo. Sedeva su uno spuntone di scisto, sorbendo la broda che Molly, in uno slancio affettivo non condiviso, gli aveva riscaldato. Vecchia Pipa era accoccolato poco lontano e discuteva in chissà quale dialetto gutturale con l'altro indiano aggregato ai bidelli. La solita compagnia di poveracci che Pantera aveva finito con l'accettare come un destino avverso. Bella Garriga arrivò gesticolando, mentre il vento gli spostava indietro la tuba e gli scopriva i capelli ricciuti. «Vuole te, messicano?» sembrava preoccupato. «Cogger, vuole te?» «Me?» «Sì». È uscito dalla vasca rabbioso come un coyote. Rifiuta l'oro potabile. «Se tu e Gros Ventre non siete presenti, ma è soprattutto te che vuole». Pantera fu tentato di mandare il medico all'inferno e poi ci ripensò. Fece cenno a Vecchia Pipa di seguirlo. Molly si aggregò spontaneamente, muovendosi sulle gambe troppo rinsecchite come un trampoliere sgraziato. Forse aveva paura di rimanere sola. attraversarono l'accampamento in quel momento ozioso. Alcuni bushwalkers pulivano le armi, altri strigliavano i cavalli, altri ancora cercavano l'erba tra le radici e cicoria selvatica per condire la cena a base di bistecche mezze crude. Si vedeva che l'inazione li innervosiva. Erano giorni e giorni che non si prendevano una sbronza. Le pareti di tela del carro di Bellagarig oscillavano, scosse da dentro. «Se no ci sbrighiamo, quello mi fracassa tutto», gemette il medico. Molly rimase all'esterno a raccogliere i fiori. Pantera e Vecchia Pipa invece si issarono nel veicolo. Cougar era veramente nudo e, braccia larghe e testa china, sembrava sforzarsi di piegare i cerchioni di ferro che reggevano la tela. I suoi piedi lunghissimi sguazzavano nell'acqua, uscita dal mastello rovesciato. Tra fili di rame e asticelle di ferro sparsi un po' dappertutto, lui stesso era bagnato e dall'incredibile peluria che gli copriva tutto il corpo cadeva una doccia di goccioline. Ringhiava, ma lo faceva piano. «Che cosa gli avete fatto?» chiese Pantera Bellagarig montato a sua volta. Era la prima volta che il messicano vedeva per intero il corpo dell'uomo lupo. Impressionante. Ma non tanto per la villosità, quanto per la tinta scura della carne, che si accentuava in corrispondenza delle vene e delle arterie più superficiali, straordinariamente gonfie. «Che cosa gli ho fatto?» «Nulla di speciale, se non del bene.» Bellagarig si accostò un poco. E Cougar, che alla vista dei nuovi venuti si era immediatamente calmato, gli toccò un braccio come per tenerlo sotto controllo e cercò qualcosa tra le asse maride ingombranti di vetro e legni spezzati. La mia teoria è che il nostro amico abbia del sangue una quantità di ferro molto superiore al normale. Ciò spiega il colorito bruno. Il bagno galvanico mi serve a misurarla. Ecco, guarda. Il medico aveva trovato sotto un feto di cane liberato dalla rottura del vaso che lo aveva contenuto un piccolo ciondolo. Si trattava di una sfera di bronzo appesa ad una cordicella. Accostò l'oggetto al petto di Cougar. La sfera iniziò a vorticare. Il pendolo reagisce così per tutto il ferro che il nostro amico ha in corpo. Se lo avvicinassi a te, penso che non accadrebbe nulla. Se invece lo accostassi ad una ciotola di sangue di lupo, l'effetto sarebbe come questo. Capisci, messicano? Un poco, spiegatevi meglio. Gli occhi di Pantera erano fissi sul viso di Cougar, mai così chiazzato e tumefatto. Non ne fu certo, ma gli parve che stesse piangendo. «Oh, non è difficile!» Lo sguardo luccicante di Bellagarig fece capire che l'entusiasmo scientifico lo stava invadendo. Il qui presente John Cougar ha tutte le caratteristiche per essere un uomo superiore. Forza, resistenza, vista acuta, intelligenza solo pragmatica. Un nucleo di sopravvivenza ostinata e indipendente, limitato nella sua perfezione assolutamente stirneriana da un solo difetto. Piegò gli angoli delle labbra verso il basso. Non è aggressivo per nulla. Pantera sorvolò sulle parole che non riusciva a comprendere e si soffermò sull'ultima frase. Come sarebbe a dire non è aggressivo? Domandò stupito. Bellagarig allargò le braccia. Sembra incredibile, ma non so che farci. È mansueto se non viene aggredito. Certo, molto più dei suoi compagni. Io sono uno schidi, mugolò Cougar battendosi il palmo della mano sul petto. Già, un lupo, secondo i Powins, però i lupi di cui parlano i Powins sono lupi da branco. Bellagarig mostrò con una smorfia il proprio disprezzo. La rivoluzione in America non ha bisogno di skidis, ha bisogno di lupi solitari. Per fortuna i sali d'oro riescono a completare la perfezione di Cougar, attizzando in lui l'istinto del predatore. Pantera era perplesso. Perché l'oro? Parlavate di ferro. Non so perché. L'oro in cristalli si usa da secoli contro i reumatismi. La mia è stata una scoperta casuale. Aggiungendo oro a sangue che già contiene ferro, la trasformazione in lupo si accelera. E quando parlo di lupi, intendo quelli che azzannano per primi, quelli veri. conversazione si trascinava senza sbocco apparente. Un intervento a sorpresa di vecchia pipa, pronunziato con voce cantinelante, le diede una svolta inaspettata. «C'erano quasi solo lupi di branco una volta su questa terra», disse svagato come se stesse parlando a se stesso. «Forse hanno ragione i Sanish, magari tutti discendiamo da loro». Però l'uomo bianco venne qui con la ferocia del lupo solitario. Ci fu una lunga guerra e la maggior parte dei lupi originari fu uccisa. Adesso vagano come fantasmi. Se c'era una cosa che Pantera davvero detestava, erano le favole lamentose e folli degli indiani. Gli indiani stessi non è che li amassi particolarmente. Per lui esistevano solo quando erano feroci e da uccidere. Quando si tenevano tranquilli era come se non ci fossero. Quando poi blateravano penose sciocchezze con bocche sdentate, gli riuscivano insopportabili. «Taci, pipa!» intimò con durezza. «Le tue chiacchiere non ci interessano. Avete parlato di ferro e di oro. Sono proprio il ferro e l'oro che trasformano l'uomo bianco in animale selvaggio. Non riesce più a riconoscere negli altri lupi dei suoi simili. Parte dello stesso branco. Bada che ti scaravento fuori dal carro!» Bellagarig tossicchiò sorridente. «Beh, il selvaggio a suo modo ha ragione. Nel campo della chimica è vero. Io l'ho dimostrato. Dubito però che alludesse a questo». Senza preavviso, Koger si lanciò in avanti, scartò il medico con una gomitata e cadde in ginocchio davanti a Pantera e al lupo bianco. «Aiutatemi!» grufolò. «Voi conoscete la magia giusta, non voglio più bere l'oro, non voglio più sentirmi bruciare nella vasca, non voglio più», aggiunse quasi singhiozzando, «fare le cose tremende che mi fanno fare». Bellagarig aggrottò le sopracciglia. «E questa bestia uggiolante sarebbe il prototipo della razza futura? Davvero comincio a pensare di star perdendo il tempo. Lo rimpinzerò d'oro ancora per qualche tempo e poi, se non cambia, gli forò la pancia con una pallottola di antimonio. Parola che lo faccio!» Forse spaventato, ma più probabilmente in preda della sua disperazione, Koger saltò dal carro, nudo com'era. Dall'esterno giunsero alcune esclamazioni tra il meravigliato e il divertito. Vecchia Pipa raccolse una coperta umida e gli corse dietro. Bellagarig scosse il capo. «Ai tempi della Guguette de Fille du Diable, quel povero scemo di Blanqui sosteneva che l'uomo è un animale sociale. Se avesse assistito a questa scena penosa, se la godrebbe un mondo». Si raddrizzò e cominciò a riordinare le suppellettili rovesciate. «Ma io non cedo. La rivoluzione, quella vera, sarà in America o non sarà». Pantera si confermò nell'idea, già affacciatasi da tempo, che quell'uomo fosse completamente pazzo. Prima di andarsene, però, aveva una domanda da porgli. «Dottore, sapete cosa è successo a Laredo?» «Oh, sì». «Eri incaricato di uccidere Koger, poi i tuoi amici hanno cominciato a sparare su di te. Mi avevano dato un fucile con una pallottola d'argento». Bellagarig, indaffarato con i suoi cocci, ridacchiò. «Beh, ti avevano preso in giro. Te l'ho già detto a Centrale. Non è l'argento che uccide i lupi mannari. È l'antimonium, il lupus metallorum. Sembra argento, ma non lo è. E scioglie l'oro, è il ferro che i licantropi hanno in corpo. Guarda, ti regalo qualcosa». Frugò in una bisaccia appesa a un cerchione e ne trasse un sacchettino di tela. «Sono pallottole di antimonio, 20 o 30, calibro 36, adatti a una Colt Navy o a una Dragoon, non una carabina. Le ho fabbricate io stesso». Pantera prese il dono e se lo ficcò in una tasca della palandrana. «Perché me le dai?» «Perché mi sei simpatico, messicano», rise Bellagarig. «Sei un lupo anche tu, anche se non ho ancora capito di quale specie. Magari prima o poi vorrei provare i miei sali d'oro. Meglio con la luna piena, così c'è più magnetismo nell'aria». «No, grazie». Pantera scavalcò la sponda del carro e si calò agilmente sul prato. Rinunciò definitivamente all'idea, coltivata durante la conversazione, di uccidere il medico. Quell'uomo era, se non un pazzo, quantomeno uno stupido. Si credeva più americano degli americani, ma era evidente che veniva da una civiltà più complicata. Sarebbe stato vittima della propria complessità tutta la vita, lungo o breve che fosse. Poi, di lui, non sarebbe rimasto nemmeno il ricordo. Molly, Koger e Vecchia Pipa lo aspettavano poco lontano, radunati attorno a un lume che la ragazza teneva in mano. L'unica luce era un altro piccolo falò acceso dagli uomini rimasti di sentinella, in un lato dell'accampamento ora completamente silenzioso. L'uomo lupo sembrava molto più calmo. «Quando è che mi curi?» chiese ansioso a Pantera. «Appena troviamo il modo di restare soli». «Potrò partecipare alla cerimonia, uomo medicina?» domandò l'indiano. Subito precisò compiaciuto. «Conosco tutte le danze, del sole, del tamburo, del cane, della volpe, del pazzo, dei vecchi, delle vecchie e della mosca». Pantera lo squadrò. Non ci sarà da danzare, Pipa, però partecipa pure. Gli spiriti malvagi della tua gente sono gli stessi presenti dappertutto. Tu li scaccerai a modo tuo e io a modo mio. Molly fece udire la sua vocetta stridula e insicura. Ma siete sicuri che si tratti di spiriti? Forse la gente è cattiva perché nasce senza affetto e vive senza affetto. Forse il ferro, l'oro e il sangue non c'entrano proprio un bel nulla. Erano tutti stanchi e nessuno le badò. L'occasione per la cerimonia si presentò parecchi giorni dopo. Bloody Bill aveva incontrato il generale Price a Bloodville. Era rientrato nero come un temporale. «Gli facciamo schifo, ecco la verità», gridò appena messo piede nel campo. «Ci è mancato poco che quel maiale in divisa grigia mi facesse arrestare. Per lui siamo la vergogna della Confederazione». «E adesso che si fa, colonnello Bill?» chiese Frank James, afferrando il cavallo di Anderson per le redini. Sopra le vetti degli Hitchcoris, nubi scurissime annunciavano un temporale imminente. «Lo scorreggione mi ha ordinato di svelare tratti di binario del nord del Missouri», rispose Bloody Bill scendendo di sella. «Mi ha preso per un fottuto ferroviere cinese. La prossima volta mi chiederà di lavargli le mutande». «Obbediamo o no? Obbediamo, obbediamo, che altro possiamo fare? Quella confederazione è quella, fa cagare, ma è quella». Bloody Bill guardò gli uomini e i capi, guerriglieri che lo circondavano. «Non occorre che veniate tutti per un lavoro da manovali. Venga chi ne ha voglia. Per gli altri l'appuntamento è tra 10 giorni a Glasgow, Howard County. Scoprì i denti aguzzi. Chi decide di venire sappia comunque che, finita la faccenda ferroviaria, ci si divertirà a modo mio. A Glasgow abita quella carogna di Benjamin Lewis». Benjamin Lewis è un nome che parve colpire i Bushwalkers, mentre lasciò a Pantera indifferente. Durante la giornata il campo si svuotò, molti, tra cui Bella Garrigue con il suo carro, decisero di andare col capo, altri si dispersero tra le colline. La sera la luna piena illuminava un accampamento ormai quasi deserto, con poche tende, una sola sentinella assopita a nessun falò. Pantera marciò verso la macchia di buio in cui aveva lasciato in attesa Cougar e vecchia Pipa, più Molly, che ormai gli stava sempre appresso. Una grossa pentola ribolliva su poche braci, unica luce accesa in quell'angolo di bosco. Le scaturiva un odore nauseabondo. Si rivolse alla ragazza. «Ho bisogno di te. Da solo non ci riesco. Porta un fazzolettino». Condusse Molly tra i cespugli. Lei lo seguì docilmente e, sul suo ordine, lentamente con perizia, gli fece uscire lo sperma con la bocca. Il fazzoletto ne fu impregnato. Pantera si ricompose, aggiustò le pistole nella cintura e, tornato dagli altri, lasciò cadere la pezzola nella marmitta. Quindi guardò Cougar, irsuto e foruncoloso come non mai. «Hai portato il braccio del tedesco?» L'uomo lupo scosse affermativamente il cranio. «Ce l'ho qua!» L'ho ripreso Bella Garrigue prima che se ne andasse, ma è tutto marcio e pieno di vermi. Aprì un involto di stoffa e porse un oggetto allungato, ormai privo di forma. Pantera lo afferrò con due dita, senza badare alla fauna biancastra che vi strisciava sopra. Lo gettò nella pentola. Poi, a sua volta, cavò di tasca qualcosa di pallido e lo mise a cuocere nella broda. In mancanza di un cane vivo, un feto può andare bene. Per fortuna Bella Garrigue ne aveva diversi sotto vetro. Intanto l'indiano, seduto sui talloni a piedi incrociati, aveva estratto dai suoi stracci una lunga pipa. L'accese con un tizzone e subito l'odore pungente del kinik-nik si sparse per l'aria. La fiamma del fornello permise di notare che il vecchio si era dipinto di rosso il reticolo di rughe che solcavano il suo viso, da tempi a tempi attraverso la fronte e su entrambe le mascelle inferiori attraverso il mento. La striscia scarlatta terminava all'altezza dei lobi delle orecchie. «Il whisky c'è, la polvere da sparo anche», mormorò Pantera guardando una serie di oggetti posati accanto alla pentola. «Mi servirebbe un sigaro, ma anche la pipa va bene. Così uniamo le due cerimonie». «È il momento giusto», mormorò l'indiano mentre lasciava uscire dalle labbra una nuvoletta di fumo azzurrognolo. «Ascolta, senti nulla tra i boschi?» Pantera prestò attenzione. Udì nitidi, anche se lontani, ululati prolungati che terminavano in una specie di singhiozzo. «Cani della prateria?» domandò. «No, fantasmi, fantasmi di lupi. La gente che un tempo abitava qui. Apparirà anche loro il grande spirito tra breve, il loro Niant. Ma credo che tu l'abbia visto come medicina». A Pantera tornò in mente il lupo gigantesco stagliato contro il cielo, ma non si soffermò su quell'immagine. Voleva fare in fretta prima che quel firmamento... prima che nel firmamento un varco tra le nubi lasciasse apparire la luna piena. perché quella notte sarebbe stata piena in qualunque fase si trovasse l'astro, lo sentivo. Koger se ne stava accoccolato tra due tronchi di noce in compagnia di Molly. Avvicinati, gli ordinò Pantera, mettiti in ginocchio davanti a me. Attese che l'uomo lupo, strisciando goffamente a quattro zampe sull'erba, si fosse messo nella posizione richiesta e disse alla ragazza: Molly, non muoverti da dove sei, potrai vedere cose tremende oppure non vedere nulla, l'importante è che tu non ti muova. Percepì, più che vedere, uno sguardo umido e grato, ma lo ignorò. Era tempo di cominciare. Respirò a fondo, conscio della fatica che lo attendeva. Fece un passo verso la pentola e immerse un braccio nella broda bollente. Come già sapeva, non avvertì alcun dolore. Frugò il fondo del recipiente con la destra. La carne putrefatta del Dutch vagava libera nel liquido. Afferrò le ossa dell'avambraccio, tenute unite da poche cartilagini, e le sollevò. Le tenne alte contro il cielo, strette in pugno che non presentava tracce di ustioni. Sambia punguele, cantilenò. Pungun sambia, sambian pungu. Sambia kuna ezula, sambia kunan toto. Vienes gaue, linganga prendete chiere. Mentre proseguiva, il grosso ventre si era alzato e poi portò a cogere la pipa piumata. Questi diede una boccata, espulse il fumo con un colpo di tosse e resse l'oggetto con le grandi mani senza sapere che fare. Allora l'indiano riprese la pipa e la tenne sollevata con la sinistra, mentre con la destra toccava delicatamente il terreno. Quindi accarezzò ripetutamente il cannello in tutta la sua lunghezza, aspirò due volte facendo uscire il fumo dalle narici e attese. Pantera aveva preso la bottiglia di whisky, si riempì la bocca con un sorso e spruzzò il liquido sulle ossa. Ripeté l'operazione mentre con la punta del piede spingeva un tizzone verso la polvere da sparo. Si udì una debole esplosione accompagnata da una fiammata lunga e giallognola. Sotto le tende del campo nessuno parve accorgersi dello scoppio. Nei boschi i lupi ululavano più forte. Pantera gettò lontano la bottiglia e prese la pipa dalle mani dell'indiano. Aspirò il fumo che gli bruciò la gola e poi lo soffiò sul capo di Koger. Ripeté con gesto il gesto in direzione delle spalle. Sambia punguele, sambia punguele, salmodio. D'improvviso la scena intonò. Cambiò completamente. Si trovava in una foresta e un grande lupo dal pelo argentato stava correndo davanti a lui, che si sforzava di tenergli dietro. Un sole accecante brillava alto a illuminare quella corsa folle. Gli arbusti si spezzavano. L'erba verde altissima si apriva al passaggio dell'animale e dell'uomo. Il terreno vibrava sotto i loro passi. Un aspro sentore metallico misto a profumi di bosco riempiva le nari. Poi il lupo si infilò in una fenditura scavata in una parete di roccia apparsa all'improvviso. Pareva troppo bassa e stretta, ma Pantera scoprì che poteva entrarvi benissimo. Lui e il lupo continuarono a volare sempre più veloci tra scenari possenti ed inquietanti, cunicoli a serpentina, passarelle di scisto in bitico su abissi vertiginosi, spuntoni di roccia erti su larghi e neri smisurati. Una luce rossa illuminava quelle visioni, che per la velocità della discesa rimanevano vaghe ed imprecise. C'erano montagne dentro le grotte, e in quelle montagne si aprivano altre grotte. Un vento fumoso sibilava tra i picchi, mentre cascate invisibili facevano udire il loro scroscio. Pantera e il lupo giunsero così ad un villaggio di pietra, incastonato in una cavità sovrastata da strade e da strati di rupe, e dominate da altri strati. Il messicano aveva già visto qualcosa di simile negli insediamenti degli antichi indiani Anasazi e Hopi nel New Messico, conficcate in ampie ferite di montagne giganti. Quando però si trovò a correre, con la lingua fuori, tra le basse costruzioni di tufo, una verità improvvisa quasi lo accecò. Quelle erano le vie di Laredo, completamente cambiate e stravolte, ma sentiva di non sbagliarsi. La luce, da rossa che era, divenne un di pallido candore. Apparvero gli abitanti a piccoli gruppi, lenti e inebetiti, che l'uomo e l'animale sfioravano e subito perdevano di vista. Pantera stentò a focalizzare i visi noti che incrociava e smarriva. Una sensazione però si impose su tutte le altre, netta e sicura. Non erano esseri umani. Ogni volto si disfaceva nella sua mente in zanne e pelame. Il cittadino scorto per un istante aveva occhi piccoli e rossi, il borghese di cui aveva lambito le gambe scuoteva una coda pelosa, il capannello di notabili stagliato sulla sua corsa strusciava le zampe in un ghiute sulla sabbia. Non erano esseri umani, erano lupi, lupi diversi dalla sua guida però, più famelici che affamati, più crudeli che selvaggi, più violenti che forti. Odiavano tutti, si odiavano tra loro, ma soprattutto odiavano lui, che pure apparteneva alla stessa specie e alla sua diversità. Un lupo ritto sulle zampe posteriori gli offriva con quelle anteriori una carabina, caricata con un proiettile molle e fasullo. Altri predatori sogghignavano, mostrando i canini. Pregustavano il momento in cui l'avrebbero soppresso l'anomalia, il lupo di branco, feroce quanto loro, ma non sempre, e non comunque. Il galoppo frenetico di Pantera e del lupo guida cominciava a sembrare una fuga, specie adesso che attraversavano un deserto di rena gialla, cosparso di carcasse di altri lupi spolpati. Poi la sabbia si schiarì e apparve un grande albero nero, dai rami scheletrici. Su ognuno di esse, sette in tutto, erano appollaiati altrettanti lupi bianchi. Dondolavano nel vuoto, code folte come quelle delle volpi, avevano occhi vigili e incuriositi. Lì terminò la corsa. Pantera uscì con fatica dalla visione. Quando riuscì a dissiparla si trovò davanti vecchia Pipa, che gli parlava eccitato e gli indicava il cielo. È apparso il loro Niant, lo hai visto come medicina? Un lupo grande come la montagna, porcospino e brillante quanto un incendio. Pantera alzò lo sguardo, ma scorse solo una sorprendente luna piena. Subito osservò Koger, ancora prono ai suoi piedi. Aveva il consueto fare animalesco, ma il suo viso sembrava meno deturpato. «Stai bene?» gli chiese. «Molto meglio, sì, lo stomaco non mi fa più male, ho molto sonno. Dormi allora. Ciò che dovevo fare l'ho fatto. Quando ti sveglierai non mi troverai più. Torno all'Laredo». Pantera cercò con lo sguardo il tronco a cui aveva legato il cavallo. Molly giunse le mani sul petto e si fece avanti, angosciata. «Posso venire con te? Non voglio rimanere qui da sola». Pantera stava per respingere con durezza l'offerta, ma qualcosa lo bloccò. Si strinse nelle spalle. «E perché no? In fondo basta che tu non mi stia appiccicata e che parli il meno possibile». Vecchia Pipa aveva raccolto da terra l'arnese che gli aveva valso il nomignolo e, vuotato il fornelletto sull'erba, lo stava riponendo sotto gli stracci. «Prendi anche me, uomo medicina. Io ho visto i tuoi spiriti e tu hai visto i miei. Ti posso essere utile». «Anch'io voglio venire con te, Pantera», uggiolò Koger raddrizzandosi. Barcollava e tremava. «Non voglio che il dottore mi riprenda se scopre che sto meglio e mi fa bere l'oro». Il messicano contemplò all'ultimo raggio della luna che se ne stava per tornare a sparire i miseri campioni di umanità che aveva davanti. Trascinare con sé quelle creature fiacche e inservibili poteva costargli la vita. Tuttavia valutò che forse la somma delle loro debolezze poteva dare un risultato superiore alle parti. La magia zoppicante di vecchia Pipa, la vigoria in declino di Koger, la modesta sensualità di Molly, se prese assieme, formavano quasi una sgangherata forma di potenza. Aggiunti alla sua, poteva dare qualcosa di buono. Finì con l'emettere un sospiro. «D'accordo, verrete con me». Tacque anche a se stesso che erano gli unici esseri umani di cui si fidava. «Però dovete aspettarmi qualche giorno. Prima di partire per l'Aredo devo fare un salto a Glasgow». «A Glasgow? Perché a Glasgow?» chiese Molly. «Credo che Bloody Bill sia là. Lo uccido e torno». Was the devil's lover. Why we master? party goes on behind elevator doors while the elevator plummets from the 69th floor. All the cars lost in the scrapyards of paradise. The newspaper photographs of all come alive. Dead in the streets, who's that girl? Paradise 8. Esisteva la scelta fra la comprensione degli psicopatici e la loro cura mediante elettroshock. E tu, per non essere costretto a prendere atto delle dimensioni gigantesche della tua miseria, per poter rimanere ulteriormente cieco laddove soltanto sguardi chiari e aperti possono salvarti, scegliesti l'elettroshock. Wilhelm Reich, Listen Little Man, 1945. Kurada si mosse all'interno dell'edificio in rovina con grande sicurezza, come se lo scampato pericolo gli avesse restituito energia e lucidità. Lilith, invece, continuava a non comprendere il senso di ciò che le accadeva. Sapeva solo di dover obbedire a quell'uomo, per motivi più forti di lei. Fu solo dopo l'attraversamento della passerella sospesa che Kurada le parlò, e lo fece con un ghigno. «Capisco il tuo turbamento. Non sapevi di essere un'infermiera. Nessuno di voi lo sapeva». Lilith non seppe cosa rispondere, lasciò cadere la daga nel vuoto sotto la passerella. Non aveva più voglia di usarla. L'arma tintinnò più in basso. Kurada si avviò verso il terrazzo. Tu lo ignori, ma gran parte della tua pelle è sintetica. Sotto vi sono impiantati dei centri nervosi artificiali, controllabili dall'esterno. Anche molte delle tue sinapsi sono artificiali. Lilith seguì meccanicamente il medico tra i cumuli fetidi di rifiuti che circondavano la base della navetta. Stava riacquistando un certo autocontrollo, ma non sapeva cosa dire né cosa stesse accadendo. Si limitò a mormorare roca. Non capisco. Kurada sogghignò di nuovo. Per forza, siamo stati costretti a nascondervi voi infermieri, altrimenti sareste stati uccisi. Ma eravate predisposti alla nascita a riattivarvi al nostro richiamo. A quello verbale o, se non avesse funzionato, a quello sottocutaneo. Nostro di chi? Di chi parli? Dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Mentale o di ciò che ne resta. Tu appartieni al nostro personale, come già i tuoi genitori, ma sulla Luna imparerai tutta la storia. Kurada fece cenno a Lilith di salire sulla scala retrattile che conduceva al corpo della Krepelin terza. Da Paradise seguitavano a salire ondate di urla, ora un po' più soffocate. La festa doveva essere al culmine, ma la nube rossa copriva ormai ogni cosa. Lilith valicò un portello e si ritrovò in un condotto luminescente dalle pareti coperte di quadranti e ingranaggi. Vi faceva un caldo eccessivo. Attese che anche Kurada fosse salito e gli domandò: «Che senso ha tutto ciò?» «Lo capirai a suo tempo. Ora cammina». Il medico si mise alle spalle di Lilith, che sfiorava l'incredulo ai meccanismi misteriosi, e aggiunse: «La festa è stata preparata da noi. Altri miei colleghi in zone diverse di Paradise ne hanno organizzate di analoghe». «Ma perché?» chiese Lilith smarrita. 300 miliardi di abitanti per la Terra sono troppi. Gli elettroshock che mandiamo dalla Luna non riescono più a controllare la situazione. Ora gira a destra». Lilith obbedì e si trovò in una sala bassa e semicircolare, illuminata da tubi fluorescenti con alcune poltroncine. L'aria che vi si respirava aveva un che di duro e inebriante. curata andò a un pannello posto di fronte alla poltroncina più grande. Troppo ossigeno artificiale, commentò, ruotò la manopola, vediamo se così va meglio. Prima di attivare il pilota automatico per il viaggio di ritorno è meglio che io pratichi una elettroshock alla gente di sotto. La festa finirà, ma credo che lo sfoltimento sia stato sufficiente. Lilith stordita rinunziò a chiedere spiegazioni, si incamminò verso una delle poltroncine laterali. La attirava il fatto che fosse linda e accogliente, non aveva mai conosciuto simili lussi. Non sederti, le ordinò curata sgarbato, poi addolcì la voce. Tu non ti vedi, ma sei coperta di sangue dalla testa ai piedi, un orrore, e dire che saresti molto graziosa. Lilith notò che il medico la squadrava con intensità, conosceva bene quello sguardo, ma in questo caso aveva una sfumatura febbrile e opaca, tipica dei mercanti di schiavi che di tanto in tanto battevano i nidi più indifesi di Paradise. Curata distolse gli occhi e si concentrò sui comandi. Spero che i miei colleghi stiano facendo lo stesso, mormorò distrattamente. Sono una decina, le navette partite dalla Luna. Troppo poco per sfoltire la Terra intera, sufficienti però per avviare i processi autodistruttivi. Col tempo le feste si moltiplicheranno in modo spontaneo. Siete molti sulla Luna? Lilith rimase un po' sorpresa dalla domanda che le era scaturita dalle labbra. Non era quella che intendeva formulare, non si sentiva più se stessa, bensì un ibrido tra ciò che era stata e una personalità diversa, che affiorava solo ora. No, qualche centinaio a meno. Al ritorno saremo ancora meno, ma avevamo messo in conto la morte di alcuni dei nostri. Curata si spostò una levetta. Ecco, l'elettroshock sta per iniziare, possiamo ripartire. È stato persino più facile del previsto. Si girò verso Lilith. Sei ancora tutta sporca. Spogliati, no? Qui fa caldo. Lilith intuì che la premura del medico nascondeva dell'altro. La sua indole guardinga ebbe la meglio sui messaggi rassicuranti che le trasmetteva la pelle. D'accordo, mi spoglio. Dimmi però una cosa. La Terra è sempre stata così? Curata rise. Sebbene fosse stanco e sudato, cominciò a sbottonare gli abiti che indossava. Senti il ciclo del portello? Stiamo per partire. Iniziò a calare i pantaloni. No, non è sempre stata così. C'erano un tempo sentimenti futili, legami affettivi, solidarietà irrazionali. Le guerre combattute a colpi di allucinazioni dall'arache, tanti secoli fa, hanno incrinato tutto ciò. L'innesco di parti metalliche nei corpi umani ha raffreddato l'empatia. Il viso gli si indurì. Beh, cosa aspetti a spogliarti anche tu? Ho voglia di una femmina. Lilith fece scorrere con lentezza la lampo della blusa, fingendo che il sangue ormai raggrumato l'avesse resa meno scorrevole. Intanto cercava di mettere assieme ricordi, intuizioni, immagini. Quando esisteva tutto ciò che dici, intendo i sentimenti, si stava meglio o si stava peggio? Curata scrollò le spalle, dai pantaloni fece uscire il pene eretto, arrossato sulla punta. Dopo le guerre c'era disordine, anzitutto mentale. Poi noi abbiamo preso la situazione in mano, intendo noi psichiatri. La psichiatria ha sempre puntato al ristabilimento di un ordine turbato, l'uomo è in fondo una macchina. Quando sfugge al controllo, o la si ripara o la si distrugge. Vuol dire che Paradise l'avete creato voi? Lilith finì di abbassare la lampo. Spero che la sua voce fosse stata abbastanza indifferente. Sì, il nome stesso deriva dai messaggi di Zodiac, un antico assassino psicopatico. Sosteneva di uccidere le proprie vittime per averle schiave in un luogo chiamato Paradise. L'Organizzazione Mondiale della Sanità Mentale ha valutato che le psicopatologie fossero ormai troppo diffuse per poter essere eliminate. Potevano però essere guidate in modo da limitare il disastro demografico. Mentre parlava, Curata si era avvicinato a Lilith e le aveva afferrato i seni. Li stringeva con troppa energia per darle piacere. Forse la nozione di carezza gli era ignota. Lilith simulò un mugolio e finse di abbandonarsi alla stretta. Intanto il suo cervello si districava dalle ultime volute del delirio. La Krepelin terza sembrava immobile, ma un lieve ronzio faceva capire che dovevano essere in volo. Dopo un gemito ben imitato, Lilith chiese in tono distratto: «Volevate renderci schiavi?» Curata parve indignato e ritirò le mani. «Perché parli al plurale? Quanto ho detto non riguarda voi infermieri. A voi, abitanti dei cubicoli, sono stati riservati farmaci a base di oro, capaci di darvi forza e di rendervi aggressivi. Siete voi padroni di Paradise, gli altri sono semplici pazienti. I lampi però li subivamo anche noi». Curata chiuse gli occhi. «Smetti di fare domande e prendilo in bocca». Lilith si inginocchiò, afferrò il pene del medico e ne strinse delicatamente il gane dalle labbra. Poi morse con tutta l'energia che possedeva. Kurada lanciò un volto, un urlo disumano, si strappò a forza dai denti di Lilith e saltellò indietro. Guardò con orrore incredulo la proboscide insanguinata che gli pendeva tra le gambe. Fece per reagire, ma subito vide il bisturi seghettato che lei stringeva. «Ferma, ferma!» le urlò disperato. «Tu non sai pilotare, morirai anche tu!» Lilith sogghignò, passò l'indice sulla lama affilata. «Non mi importa, cerco un contatto umano!» Kurada urlò di nuovo. Per Lilith mutilarlo fu un'esperienza voluttuosa. Valeva bene anche la morte. Faccenda lunga. Il 27 ottobre Pantera scovò Bloody Bill dalle parti di Albany, Ray County. Prima di lui però lo aveva scovato i federali del 33esimo e del 51esimo milizia del Missouri. Anderson e i suoi uomini, mescolati a quelli di George Todd, cavalcavano impazziti in un piccolo avvallamento tra colline e pinete, cercando di sottrarsi alla pioggia di proiettili che cadeva loro addosso. Urlavano e sparavano, ma i soldati erano distanti e i revolver non potevano raggiungerli. Invece, pur nella loro cronica imprecisione, gli Enfield a un colpo solo, ricaricati in sequenza, riuscivano a mandare le loro pallottole al centro della conca. Pantera era ben lontano, su un colle dagli alberi radi e distanziati. Si rivolse a Bella Garig, che aveva scoperto rifugiato lì col suo carro. «Portatemi il vostro Dreyse», ordinò, «anche una forcella d'appuntamento, se ce l'avete». «Vuoi aiutare Bloody Bill? Guarda che secondo me è fottuto». «No, non voglio aiutarlo. Su, sbrigatevi». Poco dopo, Pantera, sdraiato sull'erba a pancia in giù, aggiustava il fucile sulla forcella. Accanto a lui, Bella Garig commentò: «Ho capito subito che sarebbe finita male. Giù a Glasgow, Bloody Bill e Ike Berry hanno perso ore e ore nella villa di un ricco abolizionista, tale Benjamin Lewis. Uno lo torturava, mentre l'altro violentava una negretta di 12 o 13 anni. Così per un tempo interminabile, a turno. Hanno fatto del riccone e della sua schiava liberata due pezzi di carne insanguinata. Si illudevano che nessuno sentisse le grida. Eppure non erano ubriachi, avevano solo perso la ragione. Pantera non rispose. Prese la mira con cura, controllò col pollice umido di saliva la direzione del vento e sparò un colpo solo. Nella valle Bill Anderson spalancò le braccia e cadde riverso quasi strappato dalla sella. Con lui finì al suolo la bandiera nera che si era legato alla schiena. Pantera si rialzò soddisfatto e porse a bella gariga il fucile fumante. Di solito gente come quella la faccia soffrire, spiegò come per giustificarsi. Anderson però era una nullità, era già morto dentro e chissà da quanto, magari era nato morto. Il medico rimase con l'arma in mano, esterrefatto. Si riprese solo quando si accorse che il messicano, rimontato a cavallo, si stava allontanando. «Ehi, Pantera, perché non vieni con me?» gli gridò. «Vado a sud, più a sud del Messico, Guatemala e poi San Salvador. Ho comprato da un pezzo un grosso posto da ministro nel governo salvadoregno. Una cloaca in cui i tipi decisi possono ridisegnare il paese a loro piacimento e fondare una nuova società. Avrò bisogno di gente del tuo stampo». Pantera non gli rispose. Le ultime parole di Bella Garig che riuscì a cogliere tra il crepitio soffocato di spari furono quasi affettuoso. «Capisco cosa hai in mente, ma ricorda la regola messicana. Il ferro crea il lupo, l'oro lo rende feroce, l'antimonio lo uccide. L'antimonio, non l'argento!» Pantera spronò il cavallo e scese al galoppo la collina. Gli ci vollero un giorno e una notte per tornare a Rocheport. Trovò Molly, Coger e Vecchia Pipa già lontani dall'accampamento dei Bushwalkers e pronti a partire. Il viaggio che li attendeva era durissimo. Si trattava di attraversare il territorio indiano, poi quasi tutto il Texas. Per fortuna la guerra aveva spopolato intere regioni, bisognava schivare i rari borghi ancora abitati e cercare cibo e acqua nei molti villaggi in abbandono. In mancanza di meglio, qualche campo da battaglia ancora cosparso di salme offriva le borracce necessarie a oltrepassare tratti desertici. L'unica fauna visibile erano i branchi di lupi, o erano cani del deserto, la domanda era la solita, che corrivano lontano, tanto veloci da essere contorti e sfumati e da confondersi con le locce, con rocce e dune. Ma Pantera sapeva ormai di chi si trattava e non temeva quella spettrale compagnia. A occhio e croce doveva essere la seconda settimana di novembre, o alla fine della prima, quando Pantera annunciò l'indice puntato. Laredo. La città perduta tra la sabbia accoccolata sul Rio Grande sembrava tranquillo. Sulle torrette di Fort McIntosh, poco più a sud, continuava a sventolare la bandiera confederata. Il pericolo era che in giro ci fossero le pattuglie del colonnello Santos Benavides e del suo fratello Rifugio, ma era un pericolo remoto. Il gruppetto capeggiato da Pantera era tanto miserabile che difficilmente lo si sarebbe potuto scambiare per una squadra di enganchados. Il messicano fermò i suoi all'ombra di una grande roccia appuntita. Tra barsi rialzi quasi privi di vegetazione, vuotò poi una borraccia d'acqua nella gola del proprio cavallo e attese che i compagni avessero fatto altrettanto. Poi disse: «Sapete tutti perché sono venuto a Laredo, per vendicarmi. La cosa migliore è che mi aspettiate qui, se mai tornerò. Braccia in più mi sarebbero utili, ma non le vostre». Coger, durante il tragitto dal Missouri a Lee, aveva subito una qualche leggera trasformazione. Restava peloso e animalesco, ma tuttavia sembrava partire meno lustioni dei raggi solari. Aveva addirittura percorso l'ultimo tratto a capo scoperto, la criniera al vento. Merito forse del cielo novembrino un po' meno rovente, oppure di un processo di guarigione lentissimo ma già in atto. Scoprì i canini e indicò col pollice unguito le colpe infilate nella cintura. «Io ti seguo, vedrai che saprò rendermi utile». Prima che Pantera potesse rispondere, anche Molly prese la parola. «Dammi un fucile e una pistola e non guardarmi così, io la so usare un'arma». La ragazza portava sul viso slavato e chiazzato di feridi i segni di un viaggio faticoso. Tuttavia i suoi occhi sporgenti non erano smorti né passivi, anzi, il loro colore azzurro pareva essersi fatto di più intenso, tanto da conferire loro un'incerta bellezza. Toccò un braccio di Coger mentre guardava Pantera. «Non è stato John a uccidere mia sorella, Sue. Adesso so che quando ha ammazzato la ragazza del fandango non lo ha fatto di propria volontà. Le altre ragazze sono state uccise da altri. Voglio un'arma». Di nuovo Pantera stava per replicare in tono decisamente negativo, ma questa volta fu Vecchia Pipa a precederlo. «Chiaro che non me ne resto qui da solo. D'altra parte non è un caso che persiamo assieme. Ci unisce un Niant potente, in accordo con la volontà dell'essere supremo. Non sparo bene, ma un fucile riesco a reggerlo». Il messicano, suo malgrado, pensò che Vecchia Pipa potesse avere ragione. di una guerra che vedeva in scena spiriti maligni. Certi incontri potevano essere voluti da Zambia o da Nsasi, che avevano deciso di partecipare alla contesa. In quell'eventualità ribellarsi avrebbe potuto rivelarsi pericoloso. Il rischio era che le divinità del bene irritate si ritirassero e abbandonassero il campo alle sole entità cattive. Ci volle un po' a rassegnarsi, era di quelli che si sentono più sicuri soli che in compagnia. Infine, benché perplesso, annuì e ordinò la conta delle armi, che poi distribuì. Coltelli a parte si ritrovarono con 7 pistole, ma Pantera se ne riservò 4. Vecchia Pipa e Ben Enfield l'unico fucile che sapeva conoscere. La carabina Sharps, la più facile da usare, il messicano l'assegnò a Molly e incaricò Cougar di aiutarla nelle operazioni di ricarica con la bacchetta. Non vi furono obiezioni. Molto bene, mormorò Pantera, anche se non era affatto convinto. Adesso viene il bello. Cercò nella tasca della palandrana il sacchetto con le pallottole di antimonio. Ne mostrò alcune sul palmo della mano. Di queste ce ne sono per riempire 4-5 tamburi, non di più. Ciò significa che non bisognerà sprecarle. 3 delle mie pistole le carico con queste palle. Le altre le avrai tu, John Cooper. Usale solo contro i nemici più importanti. E come li riconosco? Guardando me e osservando a chi miro. Pantera si rivolse a Molly e a Vecchia Pipa. Le palle di antimonio non vanno bene per i vostri fucili calibro 58. Voi vi terrete indietro e tirerete sui nemici più lontani, soprattutto anche se loro avranno dei fucili. L'indiano, che ancora aveva il viso imbrattato di tintura rossa, domandò: sei proprio sicuro, uomo medicina, che sarà necessario sparare tanto? Sì, sei ancora in tempo a rinunciare. Pantera quasi ci sperava. Non ci penso nemmeno. Un tempo i Gross Venter erano i guerrieri più temuti del nord del Missouri, una leggenda. Pantera lo guardò con aperto scetticismo, ma trattenne il commento sferzante che gli saliva dalle labbra. E allora andiamo, cavalchiamo il più possibile uniti, senza mostrare troppo le armi. La nostra prima meta è il campidoglio dell'ex Repubblica del Rio Grande. È lì il quartier generale di Casey e dei suoi vigilantes, ammesso che dopo la battaglia al Saloon di Chavarria ne sia rimasto qualcuno vivo. Montarono a cavallo e percorsero la strada sabbiosa che conduceva alla città, insinuandosi tra collinette sempre più brulle, rinverdite alla base da saguari gonfi e spinosi. Quando furono prossimi all'abitato, cominciarono a incrociare birocci e vaqueros appiedati, a volte seguiti da un piccolo corteo di donne e bambini. Passò la carrozza sussultante della Wells Fargo e anche un convoglio di carri che trasportava cotone alla ferrovia, trainato da muri e scortato da 4 soldati in uniformi grigi e mostrine gialle. Nessuno prestò eccessiva attenzione al bizzarro quartetto, anche se non mancarono i sorrisi ironici e qualche grido di derisione. All'ingresso in città, scandito dalle campagne di Sant'Agostino che battendo nel mezzogiorno, non ebbe nulla di marziale. A quell'ora, Hyde Street era quasi deserta. Non mancavano però le vestitrici di vestite di nero, assopite dietro i loro panieri di verdure ormai vizze, né i sudisti in fuga che, troppo poveri per pagarsi un albergo, si erano sistemati accanto ai loro carri tra poltrone sbiadite dalla sabbia e su pelletti di un tempo pretenzioso. Frotte di bambini cenciosi si inseguivano tra i porticati resi cocenti dal calore. Un messicano baffuto e anzianotto, che doveva essere stato cliente di Molly, la riconobbe e l'interpellò aggiando il sombrero. «Ehi, sei tornata, ti trovo stasera?» Lei non rispose, anzi, cercò di nascondere in fretta la carabina tra le pieghe della gonna. Peggio andò a Vecchia Pipa, in una città che aveva cominciato a prosperare solo quando, a furia di cacce feroci e esecuzioni sommarie, i Rangers del Texas erano riusciti a mettere un freno alle sanguinose scorrerie di Apache e Comanches. Gruppi di bambini, vedendo l'indiano diverso da quelli domestici, cominciarono a lanciargli pietre. Lo colpirono un paio di volte, ma lui non si lamentò. «Vuoi che intervenga?» chiese Pantera, non per solidarietà ma per prudenza. Non ce ne fu bisogno. Uno dei bambini, scurissimo di carnagione, riconobbe il messicano e subito spalancò la bocca. «È il palero!» gridò spaventato. «È tornato il palero!» Subito i bambini lasciarono cadere i loro sassi e corsero in tutte le direzioni. Pantera fece una smorfia. Non ci voleva. Adesso la notizia farà il giro della città. «Non ci pensare, uomo medicina», disse Vecchia Pipa che sanguinava dalla fronte. «Comincio a prepararti il kinnikinnik, così quando sarà il momento potrai vedere». Pantera vedeva già. I pochi messicani per strada, udito il grido dei bambini, si ritraevano nelle loro baracche, guardandolo con palese timore. Tra gli americani, invece, la reazione era diversa. I più si mostravano indifferenti. Alcuni però lo fissavano stringendo le palpebre con espressione ferocemente ostile. Vi fu chi si incurvò come se stesse prendendo le misure per balzargli addosso. Pantera estrasse una Colt Dragoon caricata con le pallottole normali. Ormai erano in vista del vecchio Campidoglio, ma davanti e attorno non sembrava esserci anima viva. O almeno così pareva. Nella vicina sede del quotidiano El Imparcial, erano organo pochissimo imparziale della potente famiglia de Benavides, vi furono movimenti dietro le vetrate semicircolari del piano superiore. In una casa in pietra, tra le poche di quella zona, un'imposta sbatté in maniera sospetta. Da un magazzino di cotone giunse un nutrito soffocato. «Sanno che siamo qui e hanno preparato un agguato», sussurrò Pantera ai compagni. «I bambini non c'entrano, questi qua non ci hanno visti, ci hanno sentiti». Lo sorprese un poco la risposta di Molly, pronunciata con un timbro teso che vinceva le tonalità acute della sua voce. «Lo credo anch'io, ci osservano, non penso di sbagliarmi». Liberò la carabina dalla gonna e la mise sotto i bracci. «Prendi, Pantera», disse il Gross Vent. Aveva armeggiato a lungo col fornello della pipa piumata, che adesso sprigionava un filo di fumo torbido. «Aspira a fondo. Se sotto l'apparenza c'è un'altra realtà, dovresti percepirla». Pantera si lasciò riempire la gola da una sbuffata amarognola. Poi, mentre ancora esalava dalle narici, passò la pipa a Koger. «È meglio se siamo in due a vedere, i due con i proiettili d'antimonio». Mentre l'uomo lupo inspirava e tossiva, Pantera cominciò a notare piccole stelle brillanti accendersi un po' ovunque, sulla strada, sulle case, sull'edificio tozzo e basso del vecchio Campidoglio. Emettevano una luce bianca, tanto intensa da contrastare quella solare. Temette di perdere la coscienza e fece mentalmente appello al Prenda, della cui broda era piena la borraccia appesa alla sedia. Invocò la protezione della mistura. Non voleva salvaguardare se stesso, ma il proprio primordiale diritto alla vendetta. I suoi timori erano infondati. Rimase lucido, ma tutto si colorò di bianco, salvo le sfumature di grigio e di nero che segnavano gli ambienti, oggetti e le persone. Era un candore che non aveva nulla di naturale, identico a quello che aveva avvolto la sua corsa dietro il lupo guida. Accecava, ma dava rilievo alle cose, incluse quelle che prima non riusciva a percepire. Vide quindi, dietro le imposte scricchiolanti, prima verdi e ora scure, i musi aguzzi, orecchie appuntite e zanne sporgenti. Un uomo che stava uscendo in quell'istante dal Campidoglio, con una carabina in mano, si rivelò essere un lupo dal pellame grigio in posizione eretta, vestito grottescamente di abiti umani. Muoveva le zampe anteriori come gli arti dotati di mobilità antropomorfa. «Casey», pensò Pantera. Ma c'erano altri lupi acquattati ovunque. Il calesse che si avvicinava dal fondo della strada era guidato da creature dal grugno canino, con pelame cinereo e folto che usciva a sbuffi dal colletto e dalle maniche dell'impeccabile polacca nera. Il prete che stava venendo fuori da Sant'Agustin, che invece del breviario stringeva tra le sue grinfie, andava goffo e sbilenco, come se mal sopportasse il reggere su due gambe sole. Si udì uno sparo che echeggiò all'infinito. Era stata Molly, ora livida alla testa e ai piedi, ma elegante e fiera a fare fuoco. Aveva sparato a Casey o al suo fantasma. La pallottola aveva tintinnato sul corpo del ranger, per poi schizzare via come se avesse rimbalzato su una superficie metallica. Vedendo che Cooper, fedele alla consegna, si avvicinava alla ragazza con la bacchetta per ricaricare, Pantera gli gridò: «Non serve, ci vuole l'antimonio!» Gettò la pipa all'indiano, ma questi non poté afferrarla. Erano iniziati i colpi e il primo aveva sfondato il cranio del vecchio sciamano. Il Gross Vent si afflosciò, poi cadde di sella, sparò verso il ciro glauco con l'Enfield arrugginito, la sua unica pallottola. Il cavallo nitrì, si impennò e galoppò via, con la sella gocciolante di sangue. Apart to the devil. one takes the high one the other. Kiss on. Pantera avvertì un trasognato senso di pena, ma non c'era nulla che potesse fare. Lanciò in avanti la propria cavalcatura, sperando che Molly e Cougar lo imitassero. Quindi mise le briglie tra i denti e, in risposta, e riposta alla Dragoon, cercò tra le brache una Colt Navy. I bersagli possibili erano fin troppi. Spettri di uomini divenuti predatori stavano silenziosamente accorrendo da ogni angolo della città. I più si tenevano dritti, ma c'erano anche quelli che, a quattro zampe, scivolavano rapidi lungo i muri, trascinando sulla sabbia le code dei loro soprabiti. Poche di quelle fiere indossavano vesti messicane. La maggior parte di loro portava rendicote e sotto il pelo del collo lasciava penzolare la cravatta di seta. «Al capobranco, John!» gridò Pantera a Coger. «Punto al capobranco!» Intendeva Casey. Lo aveva già superato, ma, afferrate per un istante le redini, costrinse con uno strattone il cavallo ad una giravolta. Sparò due colpi che bucarono il muro alle spalle del ranger. Coger fu più fortunato. Al primo sparo col seno dei lupi, che grigio scivolava lungo una tettoia nerissima. Questa volta il piombo non rimbalzò, ma aprì uno squarcio nel pelo che gonfiava la camicia. Si udì un ululato terrificante che la creatura ruzzolò in mezzo ad una strada. Un attimo dopo, anche una pallottola di molli che era riuscita a ricaricare la carabina penetrò il petto dell'uomo bestia. Dopo una breve convulsione questi morì, spargendo di sangue nero la sabbia bianca della strada. Era una vittoria da poco e Pantera lo sapeva. Fu consolato da un guaito collettivo, quasi che tutti i nemici avessero vissuto l'agonia del loro confratello. Ma un istante più tardi il fuoco di fucileria si fece più fitto. Casey, con tutta calma, si portò al centro della via, tese le braccia armate di Colt, puntò e sparò. Pantera sentì il cavallo che gli si afflosciava tra le gambe, mollò le redini e saltò di sella. Cadde in ginocchio e subito fece partire altri tre colpi. Il tamburo vorticò e un individuo ferino alle spalle del ranger emise il solito ululato lancinante. Tutti i mostri gemettero. Ripeterono il verso prolungato un istante dopo, quando due spare di Coger sforacchiarono un corpo peloso che avanzava al riparo di un cumulo di barili. Ottima birra Gluek, mista a sangue, impregnò l'arena e la fece schiumare. Seguirono altre sventagliate di piombo, cui riposero radi proiettili di antimonio. Pantera, accucciato al suolo, era preoccupato. A Coger dovevano rimanere tre colpi in tutto. Quanto a lui, non gli restava che un revolver carico di sei palle e di polvere ben pressata. I nemici attorno erano almeno una trentina, aveva i minuti contati. Molly gli ruzzolò al fianco. Fucilate a raffica avevano leso le parti vitali del suo cavallo, che adagiato su un fianco stava ora nitrendo e scalciando, simile ad una farfalla che agita le ali trafitte da uno spillo. La ragazza stringeva ancora la carabina e non riuscì a mettersi in ginocchio. Si sforzò di caricarla ancora. Pantera le toccò il braccio con affetto scontroso. «Lascia perdere, Molly», disse concitato. «Riparati dietro una carcassa. D'ora in poi è cosa soltanto mia». Tutto, in effetti, lo lasciava credere. Coger, scivolato volontariamente di sella, si stava azzuffando con un individuo dal muso adunco e dagli occhi rossi che si era balzato addosso da una finestra. Gli altri mostri sparavano senza posa, convergendo lentamente verso una linea di tiro che mettesse le prede alla loro portata. Quanto a Casey, ombra nerastra nella luce nivea, se ne stava a gambe aperte davanti al campidoglio, intento a controllare con colpetti del palmo sul tamburo il grado di lubrificazione dell'unica Colt che gli era rimasta in pugno. Pantera scattò in piedi e mosse verso l'avversario. Sparò due volte in direzione delle bestie tutto attorno, strappando a ogni battito del cane un consueto coro di lamenti. Poi rimise il revolver nella cintola. Era l'invito a un duello individuale. Spero che Casey lo comprendesse. Casey lo comprese. Forse, da lupo solitario qual era, non aspettava altro. Senza riporre la Colt nella fondina, lasciò cadere il braccio armato lungo il fianco. Così erano sostanzialmente alla pari. Due macchie grigie con contorno nero su sfondo bianco. Pantera notò un fugace ritorno dei colori, subito spento dal riemergere dei chiaroscuri. Temette che l'effetto della pipa piumata stesse per svanire e questo forse avrebbe reso indistinguibile i lupi mannari dagli uomini comuni, rendendo incerti i bersagli. Avanzò con calma, la mano destra a una spana dalla Colt Navy. Casey fece lo stesso, ghignando sotto i baffi che parevano cresciuti a dismisura. Attorno la sparatoria cessò all'istante. I predatori, anche se solitari, sapevano ben riconoscere una lotta tra capi. Persino Coger e la creatura cui era avvinghiato si separarono. Pantera, cauto e lentissimo, aggrottò le sopracciglia. Casey era troppo sicuro di sé. Per quanto buon tiratore, doveva contare su una risposta che lui non riusciva ancora a intuire. L'apparente regolarità del duello nascondeva un insidio. La scoprì un istante prima che il suo polso scattasse e le sue dita stringessero l'impugnatura della pistola. Avvertì una fitta truce alle mani, poi il grilletto divenne inaccessibile ai suoi polpastrelli infiati, su cui erano cresciute unghie lunghe e dure. Quindi un bruciore intenso gli ustionò l'epidermide, preludio allo spuntare improvviso di un pelo rigoglioso che fuoriuscì a ciocche dalle maniche. Anche la spina dorsale gli dolorò, come se fosse obbligata ad una posizione che non le era propria. Casey sghignazzò. «Peccato che tu non abbia uno specchio, messicano. Guardando te stesso vedresti me». Non era vero, non del tutto. Il vello morbido che stava invadendo l'epidermide di pantera era bianco, non grigio. La coda che dolorosamente gli pendeva dal suo coccige era folta quanto quello di una volpe. E seppe subito la verità. Lui era lupo, sì, ma apparteneva alla razza antica, quella che gli altri lupi, i solitari assetati di sangue, avevano sterminato per poi farne proprio il territorio con il loro piscio. Per questo Casey aveva cercato di ucciderlo mesi prima, per l'anomalia congenita che spingeva Pantera, benché riluttante, ad accettare la vita di Branco. Anche Cougar era probabilmente un'anomalia, un sangue misto, di cui usare la violenza quando occorreva, ma da respingere se non si fosse riusciti a trasformarlo in un esemplare compiuto della nuova razza. Un nuovo lampo di colore riportò Pantera alla realtà superficiale. Era sempre in piedi, di fronte a Casey, le dita della destra brancicanti attorno al calcio della Colt. Subito, però, ripiombò nel bianco e nero della trama autentica delle cose. Stava a quattro zampe e raschiava la sabbia immacolata. Casey era a sua volta curvato al suolo e ringhiava beffardo. Tutto attorno gli altri lupi, pelo grigio, piombati dai tetti delle case o sbucati da porte e finestre, si disponevano a cerchio. Il lupo che era stato Casey balzò in avanti, scoprendo le zanne. Simultaneamente Molly gridò. «Arrivano, arrivano!» C'era gioia in quella voce stonata e sollievo profondo. Le pupille ferine di Pantera saettarono. Altri sette lupi argentei giungevano a velocità inverosimile, la coda foltissima tesa in parallelo al corpo. Ululavano e di tanto in tanto alzavano il muso verso la luna. Ma non c'era luna. C'era, ritta contro il firmamento, sotto il firmamento, la sagoma enorme e traslucida del padre di tutti i lupi, primo padrone di quelle terre. Spalancava silenzioso le fauci e agitava le zampe anteriori nell'atto di lacerare e ferire. Un bagliore sfolgorante tornò a restituire alla scena i suoi colori. Casey, sicuro di sé, era venuto avanti, troppo avanti. I suoi uomini, certi dell'esito del duello, erano usciti allo scoperto. Osservavano però attoniti sette cavalieri che giungevano al galoppo dal fondo della strada in una nube di polvere rossastra. Pantera ne approfittò per estrarre veloce la Colt. Il suo pollice sollevò il cane e l'indice premette il grilletto. Una pallottola di antimonio attraversò la cassa toracica di Casey e si conficcò nei polmoni. Il ranger emise un gemito prolungato. Pantera ripiombò ancora una volta nell'incubo latteo. L'ululato del lupo grigio stretto a lui gli fece capire che era riuscito a recidergli la giugulare. Intuì misteriosamente dal sangue scuro che uscì dalla ferita perché il pelo dell'alto era così bruno. Aveva detto giusto, bella Garrick. Nelle vene, con la linfa, gli scorreva ferro. In parte Casey era carne e in parte metallo. Dentro non aveva che gelo. I sette lupi bianchi si erano frattanto gettati sul cerchio degli aggressori. Lavoravano di grinfie che di canini e in un confuso agitarsi di zampe. Ciocche di pelo bruno insanguinato volteggiavano sulla sabbia e vi si posavano intorno a simili a ciuffi di piume in un combattimento di galli. In alto, il lupo smisurato mugolava di eccitazione. «Sparami, ti supplico!» All'invocazione riportò Pantera al piano di realtà policromo. Davanti a lui, sul tracciato sabbioso di Iturbide Street, il cadavere di Casey perdeva fiotti di sangue dal petto. Il ranger aveva riacquistato nel rigor mortis un'apparenza totalmente umana. Altre sarme riempivano la strada. Sette uomini a cavallo, vestiti nell'uniforme fitta di ricami dell'esercito del Messico, finivano a colpi di spada o di pistola o un pugno di buoni borghesi in fuga dai moschetti ancora fumanti. Molly era rannicchiata dietro la carcassa riversa del proprio cavallo, ma non era passiva. Puliva con gesti impacciati la canna della carabina, sistemava la palla di piombo sull'esplosivo e, di tanto in tanto, si sporgeva a tirare. Aveva una mira pessima, ma faceva del suo meglio. «Sparami, ti supplico!» ripete Cougar. Pantera, ancora frastornato, lo guardò sbalordito. «Perché ti dovevi sparare?» «Quelli colpiti dall'antinomio tornano normali», grufolò l'uomo lupo. Il ranger e tutti i suoi uomini che abbiamo centrato, guardali, adesso sembrano uomini veri, anche se morti. Ci volle un poco perché Pantera recuperasse la lucidità. Bisbigliò. Credi di non essere un uomo, Johnny? Ti sbagli. La tua colpa, se ne è una, è di esserlo troppo. Sono per metà animale, rispose Cover. Gli occhietti vermigli, bizzarramente infantili, erano pieni di lacrime. Ho lo stesso sangue di questi qui, anche se impuro. Il medico francese mi ha rovinato. Non posso vivere così. E io non posso ucciderti, non voglio. E allora dammi la tua pistola, io ho finito i colpi. Pantera esitò, poi finì col porgere a Cover la Colt Navy, tenendola per la canna. Nel tamburo dovevano esserci ancora una o due pallottole. L'uomo gli lanciò uno sguardo grato, sollevò il cane col pollice peloso, volse l'arma al petto e fece fuoco. Stramazzò sulla sabbia rossiccia. Pantera inclinò leggermente il capo e si allontanò dal cadavere senza raccogliere la rivoltella. Non ce n'era più bisogno. I soldati messicani sciabolavano gli ultimi aggressori e sparavano inutili colpi su quelli che fuggivano a gambe levate. Sull'Laredo splendeva un sole intenso, appena offuscato dalla polvere sollevata dai cavalli. La bandiera della Confederazione appesa sul campidoglio era lambita dalle fiamme, la struttura in legno del magazzino antistante bruciava sfrigolando. Il più marziale dei sette cavalieri, con i gradi di ufficiale sulla giacca bianca della divisa, passava da un edificio all'altro le redini tra i denti. In una mano stringeva una sciabola, nell'altra una fiaccola. Cadevano fiocchi di cenere spessa e oleosa. Pantera dovette togliere le carabine dalle mani di Molly, tanto la ragazza era concentrata nel tiro. L'aiutò a sollevarsi. «Vieni, credo che sia finita». Lei, un po' stordita, si rassettò la gonna tutta sporca di terra. «E adesso che facciamo?» «Non so proprio, non so nemmeno cosa sia successo. Hai visto i lupi?» Molly aveva recuperato lo sguardo vacuo e la vocina acuta. «Oh, sì, ce n'erano tanti. Il più grande riempiva il cielo». Dunque non era stato un incubo, pensò Pantera. Per un momento ci aveva quasi sperato. L'ufficiale messicano, gettata la torcia e riposta la sciabola nel fodero, spinse il cavallo verso di lui. Lo fermò, scalpitante, a un paio di metri di distanza. «Credo che noi ci conosciamo». Pantera osservò quel viso bruno, dalle basette folte e dai baffi impomatati volti all'insù. «Sì, comandante Cortina. Sia io che mio padre abbiamo combattuto per voi al tempo delle rivolte per le terre comunali. Vi credevamo morto». Juan Nepomuceno Cortina rise, mostrando una dentatura candida e irregolare. Anche Benavides e gli altri fottuti latifondisti confederati lo credevano. In realtà mi sono messo al servizio del Messico del presidente Benito Juarez. Indicò i cadaveri che riempivano la strada e gli edifici in fiamme. «Direi che sono arrivato appena in tempo per salvarti il culo, soldato Pantera. Non mi direte che lo avete fatto per me?» Cortina spinse di lato con le dita piene di anelli i riccioli che gli scendevano da sotto la visiera. «Oh no! Lo sapevo che all'Aredo si concentravano i volontari dell'esercito di Massimiliano, il sedicente imperatore che i francesi hanno regalato al Messico. Siamo venuti per dare una lezione alla città. Così in pochi. Anche pochi bastano se c'è fegato». Cortina diede uno strappo alle redini facendo per allontanarsi, ma prima chiese: «A proposito di fegato, perché non vieni con noi? Juarez cerca volontari capaci di sparare e il compenso è buono». «Ora ci penso». Pantera attese che il condottiero fosse distante e si rivolse a Molly. «Che ne pensi, andiamo?» Non seppe nemmeno lui perché avesse rivolto quella domanda. Per tutta la vita aveva preso decisioni da solo e schivato ogni compagnia. La ragazza la guardò incredula, poi il viso le si illuminò. Riuscì a stento a balbettare. «Sì, certo, ma credevo che tu, insomma, i lupi, ce ne sono ancora tanti, non dovremmo seguitare a combatterli». Pantera, tra i molti cavalli che correvano liberi, cercò con lo sguardo i più adatti, fece spallucci. «La lotta in questo paese continuerà anche senza di noi. I lupi di branco contro i lupi solitari. Se avranno la meglio i secondi, l'America sarà l'inferno, e prima o poi il mondo intero. La loro frontiera si sposta», ghignò tra sé. «Bella Garigo l'avrebbe però chiamato paradiso, anzi, paradise», imitò l'accento del francese. Afferrò per le briglie due cavalli meno spaventati degli altri, aiutò Molly a salire in sella, poi a sua volta montò in arancione. L'occhio gli cadde sul corpo di Cougar, riverso poco distante. Il pellame era ancora lungo, ma gli eczemi che gli zuppavano il viso erano spariti. Sembrava sereno. Pantera mentalmente lo raccomandò a Nzambi, dio maligno ma giusto. Lui e Molly si allontanarono lungo la strada rossiccia tra gli edifici in fiamme. Il fuoco che divorava il tetto del Campidoglio aveva avvolto anche la bandiera confederata. Non l'aveva bruciata però, ma solo annerita. Sembrava uno straccio nero lasciato lì a marcare l'assenza di ideali, di sentimenti e di un futuro plausibile. O forse un futuro c'era, d'oro e di ferro, comunque di metallo. Monster! allora, abbiamo finito con oggi il racconto di Black Flag. Abbiamo letto l'ultimo capitolo. L'ultimo brano erano 16 Volt con il brano Beating Dead Horses. Ovviamente chi ascolta la radioazione sa che comunque anche durante le letture, bene o male, anche se non vengono annunciati i brani, comunque è una musica, cioè si cercano un po' dei testi che sono un pochino, che si collegano anche alla lettura che si fa. Allora, l'appuntamento ora per la lettura nuova, che sarà Antracite, così si chiude la saga di Pantera, sarà per lunedì prossimo, invece venerdì prossimo alle 16, diretta d'azione normale. Allora, andiamo, ora si inizia con la lettura di un po' di comunicati. Ci sono giusto due o tre comunicati, perciò ci eravamo lasciati un po' tutto alla fine, perché c'era poca roba da leggere e quindi si è dato più spazio alla lettura. Il primo comunicato arriva praticamente dai compagni del Cile, i compagni di Pubblicación Refractario, che praticamente con un comunicato ci fanno sapere che i prigionieri del modulo 31 del carcere concessionata di Leancaue il 5 gennaio scorso hanno protestato contro gli abusi nei loro confronti. I secondini e il personale antisommossa hanno represso la protesta salendo con i cani e picchiando i prigionieri. I detenuti hanno contattato vari gruppi anche di media, e praticamente hanno fatto sapere che un detenuto è sul punto di perdere un rene a causa delle percosse. I 16 prigionieri del modulo hanno detto inoltre che i carcerieri hanno rotto loro gli oggetti di igiene personale, che hanno spruzzato sul loro cibo un gas con il pepe, oltre alla furiosa aggressione. Secondo l'ospedale della prigione, il detenuto ferito non aveva lesioni di ogni tipo. Poi uno dei paramedici ha rivelato con una spiegazione imbarazzante che questo era dovuto al fatto che l'uomo era nero, così non gli è stato possibile vedere le ferite. Cioè, pensate che merda. L'Istituto Nazionale dei Diritti Umani intanto ha lanciato un appello contro le guardie con l'accusa di tortura. Ha nominato un procuratore speciale della Corte d'Appello, Dario Carreta, ha arrestato il ministro della Giustizia, Patricia Perez, e il capo della Gendarmeria, Luis Masferrer, determinando l'avvio di un'indagine sui fatti accaduti. Ora ci ascoltiamo ancora un altro brano e poi dopo si ritorna con un'altra notizia di Contrainfo. Yeah. E allora erano Move Unite con il brano Gun for Heads. Passiamo subito agli indirizzi utili per radiazione. All'inizio ci eravamo dimenticati di dirlo perché comunque c'era un attimo un'urgenza di finire anche la lettura presto. Allora, gli indirizzi utili per radiazione, praticamente per chi vuole scrivere radiazione, vuol mandare mail, lettere, comunicati, fanzine online, tutto quello che potete mandare attraverso una mail, lo potete fare attraverso la mail di radiazione radioazione@chiocciolinaautistici.org. Invece per il blog, dove potete leggere le notizie che vengono anche lette durante le dirette d'azione, oppure anche andare a riascoltare le vecchie dirette d'azione sotto la categoria ascolta le dirette d'azione, il blog è radioazione.noblogs.org. Dal blog potete anche scaricare alcuni opuscoli, c'è una sezione in alto a destra, c'è una sezione download dove ci sono un bel po' di opuscoli che sono stati redatti sia da Edizione Affinità, che praticamente è l'antenata di Radiazione, che da altri compagni sparsi per il mondo. Allora, passiamo subito alla prossima notizia. Praticamente è stata lanciata una campagna di solidarietà per gli spazi liberati. Ci arriva un comunicato dai compagni del blog Fight Now, che potete vedere se andate sul blog di Radiazione, dove trovate l'articolo sulla campagna di solidarietà. C'è anche il link di Fight Now. Praticamente riceviamo il testo di questa campagna di solidarietà per gli spazi liberati e compagni anarchici in tutto il mondo. Leggiamo il testo che ci mandano questi compagni. Facciamo richiamo per una campagna internazionale di azioni dirette in solidarietà con gli spazi liberati dal 2 al 12 febbraio 2013. Ma non vogliamo fermarci dopo un paio di azioni, perché questa è molto più di una semplice reazione alla repressione. Inviamo un appello a tutti gli anarchici e gli anti-autoritari per combattere ora in tutto il mondo. Anche se l'assalto recente dello Stato greco contro lo spettro anarchico anti-autoritario è stata la scintilla iniziale per la scrittura di questo richiamo, diversi esempi in tutto il mondo ci mostrano che la polizia e le autorità municipali, insieme alle corporazioni giganti, stanno cooperando in modo eccellente tra di loro, attaccando le strutture dei solidali e pacificando intere società a livello internazionale. Durante le ultime due settimane, e mesi, in varie parti del mondo, dove la gente soffre dell'impoverimento sistematico e dai piani di gentrificazione estesa, sono aumentati gli attacchi dello Stato capitale contro i movimenti radicali, compreso la repressione contro le forme concrete di resistenza, come le occupazioni di terre e i progetti autonomi, le occupazioni delle sedi centrali e di società o le azioni di sciopero. Riteniamo quindi importante collegare anche le nostre lotte in tutto il mondo e combatterle nell'immediato. Azioni di risposta agli attacchi contro gli spazi occupati nel vostro territorio potrebbero essere la scintilla per voi. Agite per l'estate e lasciate che la vostra fantasia diffonda il messaggio della resistenza attiva. I nostri compagni sono ancora imprigionati in tutto il mondo, molti dei nostri spazi auto-organizzati sono stati sgomerati o hanno subito irruzioni. Le nostre infrastrutture sono sotto assedio e i nostri canali di controinformazione sono censurati o ostacolati. Ogni volta che esprimiamo le nostre idee pubblicamente, Robocop in uniforme sono in agguato ovunque. Macchine di sorveglianza seguono ogni singola mossa che facciamo, mentre lo Stato conta sul supporto di una folla armata fascista. Ma la nostra lotta esistenziale oltrepassa la difesa di spazi solidi. Quindi è il momento di dire basta con il disfattismo permanente. La guerra sociale viene combattuta indipendentemente da sfratti o detenzioni, non ci sono confini nei nostri cuori e per ogni progetto distrutto due nuovi dovrebbero sorgere in tutto il mondo. Per ogni compagno imprigionato le nostre azioni dovrebbero parlare. E poi alla fine il comunicato finisce con uno slogan: svegliatevi, partecipate, infuriatevi. Guerra alla guerra dei governanti per un febbraio nero. E questo era il comunicato che ci arriva dai compagni di Fight Now. Intanto già ci sono state un bel po' di iniziative in solidarietà, in particolar modo con gli spazi che sono stati sgomberati in Grecia. sul blog di informazione potete vedere le foto o qualche video di queste iniziative che si sono sparse in tutta Europa, in Germania, in Olanda, ad Amsterdam, in Finlandia, sia ad Helsinki che a Tampere, e pure a Zagabria, in Croazia. Allora, ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Cudi Idioti e il brano è Enema vi snifferà. Nije kasno da postaneš idiot. Na kaštelu rulja sa prava mala sjednica. U svilu i gitare pjevamo li pjesme stare. A niko to ne želi slušati. I tako fura svoje filmove. Za uvijek misli da takvi su baš najbolji. Questi erano Cudi Idioti, brano Nema Vise Snifra. E allora, passiamo con le ultime due notizie della giornata, notizie un po' di contrainfo. Una arriva dalla Venezuela, dove praticamente si apprende più alta dalla stampa infame che c'è stata una rivolta in un carcere praticamente il 25 gennaio nello stato del nord occidentale di Lara, in Venezuela, in seguito a un segno di protesta contro una perquisizione messa in atto dalla Guardia Nazionale in un'unità del penitenziario centro-occidente nota come Uribana, è scoppiata una rivolta. Si contano almeno 54 morti tra secondini e detenuti e circa 88 feriti. Invece, come ultima cosa, anche se non è un'ultima cosa, deve essere una cosa principale, c'è sulla radiazione un invito ai compagni in tutta Italia ad organizzare iniziative benefit per i compagni detenuti. Servono un po' di soldi per le spese legali, ma anche per la loro sopravvivenza nei lager di Stato italiano. Ricordiamoci che la solidarietà scritta non è solo a parole, ma perché anche perché quando la solidarietà scritta è solo una parola, vale quando la solidarietà che Ratzinger ad esempio dà ai popoli del Sudafrica, a quello che lui chiama il terzo mondo, benedicendoli con una mano pieno d'oro. Allora, questo è un invito, a parte quest'ultima cazzata con cui si conclude questo invito di radiazione. Praticamente c'è urgenza perché praticamente in seguito a delle leggi, alle leggi del nuovo governo italiano, in particolare del governo Monti, praticamente c'è un po' di difficoltà anche per il gratuito patrocinio, ci sono state delle restrizioni anche su questo e quindi servono un po' di soldi da tirare su. Quindi chi ha la possibilità tra i compagni di organizzare iniziative in Italia, e comunque non solo iniziative e benefit per tirare i soldi, comunque serve che se ne parli che sono ancora dentro un bel po' di compagni, perché mi sembra che si parli di tutt'altro, si parla di benefit per qualsiasi cosa, a parte per i compagni che sono in galera. Quindi chi ha la possibilità e chi ne ha voglia, speriamo che ne avete voglia un po' tutti, fate iniziative di solidarietà e benefit, mandate i soldi in galera, mandate i soldi, non c'è ancora una cassa, a breve, la settimana prossima vi faremo sapere ancora un nuovo conto corrente dove potete mandare i soldi dei benefit per le spese legali e per altro. Quindi per ora chi vuol muoversi singolarmente può mandare il suo contributo direttamente ai detenuti, altrimenti aspettare un'altra settimana ancora e mandarli su questo conto corrente. Allora, per oggi la diretta d'azione termina qua, noi diamo l'appuntamento per venerdì prossimo con la diretta sempre, quella normale, quella con tutte solo comunicati, letture di lettere oppure qualsiasi cosa che arrivi dai compagni sia dentro che da fuori, non qualsiasi cosa, diciamo, quelle che si ritengono più leggibili e più affini alla radiazione. Allora, l'appuntamento per la diretta d'azione è per venerdì prossimo dalle 16 alle 18, quella normale, invece per la lettura e per il nuovo libro che si andrà a leggere lunedì prossimo, lunedì dalle 16 alle 18, con il nuovo libro Antracite. Allora, ricordiamo ancora l'indirizzo per radiazione, radiazione@dcc.org, per mandare mail, comunicati, scritti, locandine, tutto quello che volete mandare attraverso la mail, radiazione@dcc.org. Invece su blog potete anche riascoltare le varie dirette d'azione che da una settimana a questa parte sono disponibili sotto la categoria Ascolta le dirette d'azione. Stesso stasera potete riascoltare, per chi si è collegato tardi, può ascoltare la diretta d'azione di oggi pomeriggio. E allora, appuntamento a venerdì prossimo, vi lascio con I Negazioni, Giochi nel Vento, un abbraccio a tutti i compagni che comunque quotidianamente e anche ogni tanto ci danno una mano anche a radiazione nelle traduzioni, aiuto per pubblicare podcast, nei comunicati, insomma. E anche a chi ascolta ogni tanto o spesso radiazione. Negazioni, Giochi nel Vento, e con noi l'appuntamento è per venerdì. Hey! Giochi nel vento, di nuovo, serale, diverso, importante capire, urlare, mirare e poi ridere. Giochi nel vento, giochi nel vento, giochi, giochi nel vento. Silenzio poi passa, io penso, io guardo e gioco da solo. Gioco nel vento, domani e oggi, tempo uguale nel vuoto, nel vento. Che di vita e giochi. giochi nel vento, di nuovo scenari diversi, importante capire, urlare di rabbia e poi ridere. Di nuovo scenari diversi, importante capire, urlare di rabbia e poi ridere. Giochi nel vento. Gioco da solo, guardo il gioco da solo. Silenzio, poi passo, io penso, silenzio. Silenzio, poi passo, io penso, silenzio. Gioco, gioco, gioco nel petto. C'è lo sguardo in questo momento. C'è lo sguardo in questo momento. C'è lo sguardo in questo momento. C'è lo sguardo in questo momento. Giochi, giochi nel vento. Questo è il momento di giochi. Giochi. Giochi. Giochi nel vento. Giochi. Giochi nel vento. Giochi. Giochi nel vento. Il senso di chi capisce, hanno visto dei film e di parole, gli occhi del mio cuore. Domani, oggi, tempo uguali nel vuoto, nel vento, ma anche di vita e giochi. Giochi nel vento, di nuovo, scenari diversi, importante capire, urlare di rabbia e poi ridere. Di nuovo, scenari diversi, importante capire, urlare di rabbia e poi ridere. Giochi nel vento, giochi, giochi nel vento, giochi, giochi nel vento, giochi, giochi nel vento. Bravo a Cron. Radio Action. Radio Action. Radio Action. Radio Action. Radio Action.